Esprimere delle valutazioni sobrie nelle cose della vita è un atteggiamento molto raro e più facile cadere negli estremi, perché arrivato all'estremo non hai il pensiero di doverti sforzare per cercare di essere equilibrato. La sobrietà è quel comportamento mantenuto entro giusti limiti e in genere non eccessivo. Si diventa estremisti quando dopo una lite si dice «non parlerò mai più con quella persona». Oppure quando si decide, una volta per tutte, di non mettere più il piede in una certa casa. Si possono avere tutte le ragioni possibili, ma condizionare il futuro in questo modo non è saggio. Quante decisioni si sono cambiate? Anche la Bibbia racconta di uomini che hanno preso decisioni estremiste o hanno espresso conclusioni estreme. Di questi sono stati anche alcuni discepoli di Gesù. Consideriamo ora l'episodio narrato nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, dove si riferisce di una discussione che verteva sul matrimonio. Allora gli si accostarono alcuni farisei per tentarlo e gli dissero: «È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?» Ed egli rispondendo disse loro: «Non avete voi letto che chi li creò da principio li creò maschio e femmina? E disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la propria moglie, e i due diverranno una sola carne. E così non sono più due, ma una sola carne, quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi». Essi gli dissero: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle un atto di divorzio e mandarla via?» Egli disse loro: «Per la durezza dei vostri cuori Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non era così. Ora io vi dico che chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio, e chi sposa colei che è stata mandata via, commette adulterio». I suoi discepoli gli dissero: «Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla moglie, non conviene sposarsi». Matteo 19:3-10. Quando leggiamo queste conversazioni tra Gesù e i religiosi del suo tempo, non dobbiamo pensare a diatribe puramente verbali o filosofiche, tanto per ragionare, ma erano argomenti molto importanti, se non vitali, per la vita religiosa. In questa discussione l'argomento non era da poco. Si trattava di un aspetto sociale di cruciale importanza. Era giusto e bene ripudiare la moglie? Oppure no? Una domanda che poteva anche sembrare inopportuna, visto che tra gli ebrei il ripudio era più che mai praticato, ma evidentemente qualche altro religioso lo trovava sbagliato. Gesù, come ha spesso fatto, non risponde né no né sì, ma ricorda loro che, nel matrimonio, l'uomo e la donna diventano una sola carne. Perciò il ripudio rappresentava un atto contro al principio divino. I farisei, che a loro volta conoscevano la legge, rammentarono a Gesù che questa ordinava il ripudio, ma egli ricorda loro di rimando che si trattava di un atto di concessione, non di una volontà espressa da Dio. A questo punto i discepoli, disarmati e atterriti di fronte a questa conclusione, esclamano: «Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla moglie, non conviene sposarsi». Perché questa conclusione estremista da parte dei discepoli? Cosa avevano intuito nelle parole di Gesù per concludere che per l'uomo è meglio non sposarsi? Dovevano aver compreso veramente qualcosa di grave per andare contro ad una delle scelte più importanti, più belle e decisive della vita. Forse i discepoli avevano capito una cosa a noi oggi, dopo 2000 anni, incomprensibile. Possibile. Proviamo a fare alcune riflessioni pratiche, in grado di aiutarci a comprendere lo smarrimento dei discepoli. Per gli ebrei il matrimonio non era un vincolo indissolubile, sia perché la legge dell'antico patto non trattava questo argomento. Infatti, se un uomo sposava una prigioniera e in seguito non gradiva più, la poteva lasciare andare dove voleva, sia perché il ripudio era permesso da Dio stesso. Perciò, il vincolo matrimoniale per un uomo non era un legame duraturo. Psicologicamente l'uomo si sentiva libero. Se sposava una donna e le cose andavano secondo il suo punto di vista, bene, altrimenti poteva rifiutarla. Con questa condizione si sentiva svincolato. come con un oggetto. Se compri una macchina o un mobile e poi vedi che non corrispondono ai tuoi bisogni o ai tuoi gusti, li cambi. Non male, puoi sempre rimediare al tuo eventuale errore. Cosa avevano capito i discepoli quindi per esprimersi in modo così estremista? In merito alla convenienza del matrimonio. Avevano capito che il principio del matrimonio istituito da Dio non era stato redatto come lo intendevano, ma che il legame matrimoniale è per l'intera esistenza. Non potevano mandare via la moglie per qualsiasi motivo, ma dovevano tenerla. Una moglie non era, né è, un capriccioso oggetto, ma uno stesso corpo con il marito. A questo punto, i discepoli sono coerenti con quello che hanno capito. Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla moglie, non conviene sposarsi. Forse questa è l'unica volta che hanno tratto una conclusione maschile sensata. Come poteva un ebreo tenere una moglie sterile quando il principale compito del matrimonio era di avere una discendenza? Poiché vivevano di pastorizia e la loro forza lavoro consisteva nelle braccia dell'uomo, come avrebbe fatto un ebreo a coltivare la terra, a portare a spasso il bestiame? Se la moglie non dava dei figli, come poteva il popolo ebraico difendersi dai nemici se le mogli non partorivano figli o se una sola moglie non poteva procurare i figli desiderati? Inoltre il profeta Samuele e il re saggio Salomone non sono forse nati da mogli diverse? Dalla prima sposata? Erano interrogativi più che giusti, ma a rifletterci bene, Dio era venuto incontro a queste esigenze, permettendo la poligamia, perciò Gesù ha semplicemente detto che una moglie non andava ripudiata per qualsiasi motivo. E l'estremismo dei discepoli a averli portati a concludere che non conviene sposarsi. Come poi avrebbero risolto il problema della discendenza? Non lo so. Credo che nel XXI secolo questo non conviene sposarsi abbia il suo serio e profondo peso. Se tu desideri il matrimonio, perché sei stanco di contenere le tue pulsioni sessuali, non hai convenienza a sposarti. Se credi che finalmente con il matrimonio puoi soddisfare tutte le tue brame relative al sesso, prendi un grosso granchio. Nel matrimonio sono molte le volte che ti devi astenere dall'esercitare la sessualità. Come farai se non ti sei autocontrollato quando ancora non hai toccato donna? Almeno una volta al mese, per circa una settimana, devi rispettare tua moglie nei giorni delle sue mestruazioni. Poi esistono le indisposizioni che producono le malattie e il logorio della vita. Perciò, se ami tua moglie, dovrai rinunciare a uno dei piaceri più belli della vita. Non parliamo poi della presenza dei bambini, i quali rubano tempo e disponibilità dedicati a te. Alcune donne con la maternità perdono completamente il desiderio dell'incontro sessuale e alcuni uomini in breve tempo perdono la virilità. Se tu sei orgoglioso di essere virilmente potente, come farai a contenerti? Una cosa è l'aver fame quando non si ha nulla sul tavolo, altra è essere affamati di fronte a una tavola imbandita dove spicca la più bella e piacevole torta che in precedenza hai sempre mangiato a tuo piacere. Credi che sia facile vivere con questi profondi, scioccanti istinti? Dammi retta. Se il matrimonio per te è la bella giostra che soddisfa tutti i desideri del tuo corpo, dell'anima e della mente, non ti conviene sposare. Ho presente due sposini che di ritorno dal viaggio di nozze furono coinvolti in un incidente d'auto, a causa del quale lui è rimasto completamente cieco. Dove sono finiti i sogni della mogliettina riguardo al suo principe azzurro? Ha potuto forse cambiare marito? Abramo Lincoln ha subito umiliazioni dalla moglie, che andavano da ricevere il caffè in faccia in pubblico, alla sua sregolata prodigalità. Se tua moglie non ti onora, cosa fai? Che ti piaccia o no, te la devi tenere. Nel prendere coscienza di tali avvenimenti, realizzi che il matrimonio è il più grande salto nel buio esistente, o la più grande fregatura. E un salto nel buio simile a quello della conversione a Cristo. Tu doni la vita a Cristo e non sai cosa ne faccia. Tu sposi qualcuno e non sai con chi vai a convivere. Una moglie mi confidava che il marito, prima di andare a letto, passa mezz'ora a guardare sotto il letto, negli armadi, obbligandola a fare lo stesso. Se è così, non conviene sposarsi, non ti sembra? Di recente, un marito credente, disperato e confuso, mi confidava il dramma con sua moglie, anche lei una brava e stimata credente, che da 6 mesi rifiutava di fare sesso. Ne aveva parlato con gli anziani della comunità e con la Chiesa, ma senza trovare aiuto. Secondo te, conviene sposarsi? Pensa seriamente al matrimonio? Guardalo nella cruda realtà e avrai tutto il vantaggio, reprimendo i tuoi stupendi e fantastici impulsi sessuali, come pure i tuoi meravigliosi sogni di un idilliaco matrimonio. Hai solo da guadagnare, perché i sogni scoppiano come palloncini, la realtà rimane. E la realtà è sempre iconoclasta, cioè demolitrice di tabù. Ho presentato questo aspetto realistico del matrimonio non per invitarti ad avere verso di esso un atteggiamento negativo. Il matrimonio è un dono meraviglioso di Dio che purtroppo gli esseri umani e la natura corrotta hanno alterato. Innanzitutto la donna è stata creata da Dio come l'aiuto, non come un aiuto, quasi ce ne fosse un altro, che conveniva all'uomo. Un aiuto corporale, morale e spirituale. Un aiuto corporale, perché viene incontro alle necessità biologiche del sesso, un aiuto morale, perché solo con lui può relazionarsi da femmina, un aiuto spirituale, perché è in grado di comprendere l'uomo negli aspetti più profondi del suo spirito e aiutarlo. Non ho parole per definire la bellezza del rapporto tra un uomo e una donna, e neppure per descrivere la profondità e l'utilità di un rapporto di coppia. Un maschio che sa relazionarsi con una femmina può definirsi completo, ma se uno sa cogliere in positivo tutto ciò che offre il matrimonio, ha qualcosa di più. Ed è normale, perché più profondo è il rapporto, più si comprendono aspetti della vita, che sfuggono a chi non vi si addentra. È vero che un matrimonio si presenta pieno di sorprese, perché non hai mai vissuto un rapporto così intimo con un altro essere come te e diverso da te. Ma è altresì vero che queste sorprese ti sono date perché tu sei in grado di cogliere verità che non avresti compreso in altro modo. Non solo, queste sorprese ti sono date perché tu possa diventare quello per cui Dio ti ha creato. L'improvvisa difficoltà, una moglie iraconda o un marito violento servono per stimolare in te virtù cristiane che non si sarebbero sviluppate in occasioni più favorevoli o pacifiche. Se tu credi alla sovranità di Dio, devi pur credere che nulla capita a caso. E il tuo matrimonio, per quanto sembra fallito e sbagliato, sarà un'altra occasione per glorificare Dio. Perciò, alla preghiera di sposare la persona che Dio ha preparato per te, o al dubbio di aver sposata la persona giusta, è legato un errore di fondo. Il primo errore, se siamo onesti fino in fondo, è che non desideriamo soffrire, ma vivere un romantico matrimonio hollywoodiano. Il secondo errore è che siamo stanchi di continuare a lottare con il nostro coniuge. Abbiamo voglia di pace e di serenità. Chi siamo noi da voler cambiare le cose? E se Dio ti ha messo accanto quella persona perché tu la possa aiutare, perché lamentarti? Non vuoi fare la volontà di Dio? Se Dio ha deciso di non mandarti in paesi lontani per servirlo, ma ha stabilito che tu possa aiutare il tuo partner con il tuo amore e il tuo servizio, cosa hai da replicare? Dopo più di 40 anni di vita coniugale, posso affermare che il matrimonio è uno stupendo strumento per dare gloria a Dio, è un indispensabile mezzo per sviluppare virtù cristiane e il carattere. Perciò, come da giovane non mi sono posto il problema se avrei sposato la persona giusta, ora non mi pongo la domanda se ho sposato la persona adatta per me. Benedico Dio per la moglie che ho, e tornassi indietro, la risposerei anche prima. Conviene sposarsi? 2013 02 21 Ellero,